professor Chiesa, lei ha mai esatto. fatto l'autostop o ha caricato qualche autostoppista? Dica la verità. Senta, lei non è molto famosa in Francia. Perché quando uno dice è argentino, allora balla il tango. Non è che tutti gli italiani sanno fare la pizza, ecco. Certo. Quindi, che non so se sia preparato sul gossipon, ma avrà un corazon. Corazon e dinheiro. Con assolutamente il bacio alla francese, come si usa dire, soprattutto. All'Hollande. No, dicevo, è innamorato, la buttavo lì. Della vita, sì. Della vita fantastica. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Gioielli favolosi, dobloni, doppie guinee, pezzi d'oro inglesi, francesi, portoghesi, spagnoli. C'erano soldi di tutto il mondo e tanti, più delle foglie di una foresta. Non siamo sull'isola del tesoro, cara mia Nicoletta, siamo sempre a Cuore Denari e non abbiamo trovato dobloni di alcun tipo. Semmai a trovare un bel po' di milioni di vecchie lire è stata la famiglia Sacchi nella sua cantina. Tu ce l'hai una cantina a casa? Sì, però l'ho già svuotata più volte, non ho trovato niente. Forse qualche topo. Alcune invece la famiglia ha trovato alcune decine di milioni delle vecchie lire in un vecchio casolare a Bologna, tra l'altro che la famiglia si era aggiudicata con un'asta. Quindi una doppia fortuna. Esattamente. Un piccolo grande tesoro che però a quanto pare non potrà essere incassato. Sì. Quindi non vi abbiamo detto la cifra precisa, però sappiamo che è una cifra abbastanza consistente. E non l'abbiamo detta perché c'è un motivo. Non ve la diciamo perché vogliamo vedere se siete attenti, se siete informati, se avete sentito questa notizia e vi ricordate di quanti milioni si trattava. Ripetiamo, in un casolare a Bologna ritrovati in cantina. 800 24 00 24, vediamo chi sarà il primo a chiamarci e per darci la risposta corretta. E chi lo farà si aggiudicherà due biglietti per una mostra organizzata dal FAI, il Fondo Ambiente Italiano, all'origine delle sensazioni, che si svolgerà a Villa Panza a Varese. Invece a quanto pare la famiglia che ha trovato questo piccolo tesoro in lire di cui parlavi non si aggiudicherà invece un bel niente. Esatto, ci avevano già fatto un po' la bocca, come si dice, e invece niente, perché la Banca d'Italia da tempo ormai non accetta più di cambiare le lire in euro. La famiglia è arrivata a dire che potrebbe addirittura denunciare Via Nazionale, quindi Ignazio Visco. Una storia che ci fa tornare sulle tante vicende di somme dormienti, anche se in questo caso non si tratta esattamente di un deposito dormiente, sono comunque piccoli tesori nascosti nelle nostre case e anche polizze, libretti e conti. C'è chi trova un tesoro in cantina, chi lo trova portando a spasso il cane. Successo a Mary e John, i nomi sono di fantasia, due coniugi californiani che passeggiando con Fido, anche il nome del cane è sconosciuto, nella loro proprietà si sono imbattuti in una cassetta arrugginita che custodiva monete d'oro per un valore stimato di 10 milioni di dollari, oltre 7 milioni di euro. Quando si dice, Deborah, che la compagnia di un cane vale un tesoro, vedi, l'ha trovato proprio lui. E noi proprio di Fido e dei nostri amici a quattro zampe parleremo nella seconda parte della trasmissione. Le stime ci dicono che 4 italiani su 10 vivono con un animale. Diteci con chi vivete voi, cane, gatto, criceto, pappagallino, furetto, e quanto la convivenza con l'amico peloso o pennuto vi ha cambiato. Perché il rapporto biunivoco uomo-animale ha un grande potenziale terapeutico, questo non lo dico io, che lo confesso assolutamente di parte, ma lo dimostrano anche gli studi. L'ultimo in ordine di tempo arriva dall'Università St. Andrew in Scozia e secondo i ricercatori occuparsi di un animale farebbe addirittura ringiovanire di una decina d'anni. Sì. Quindi, vedi, altro che massaggi. Ma i benefici di una serena convivenza non finiscono qui. Se siete d'accordo, chiamateci. Se non siete assolutamente d'accordo e gli animali non solo non vi piacciono, ma ne avete anche paura, chiamateci e ne parleremo. Se potessi avere 1000 lire al mese, senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego io non ho pretese, voglio lavorare per poter al fin trovare tutta la tranquillità. E che siano mille, che siano decine di milioni, tra poco qualcuno di voi ci dirà quanti, ormai cambia poco, le lire non si possono più cambiare. Buongiorno all'avvocato Giulio Ascioti, responsabile Dipartimento Fondi di Solidarietà di Consap, la concessionaria servizi assicurativi pubblici SPA, un'organizzazione della quale abbiamo parlato tante volte. Avvocato, bentornato a Cuore Denari, buongiorno. Grazie, bentrovata. Buongiorno. Eccoci qua. Avvocato, come commenta questa vicenda e questo accaduto, l'accaduto a questa famiglia di Bologna? Secondo lei come andrà a finire? Non dica la cifra del ritrovamento, perché è oggetto questa mattina del nostro quizzettone per i nostri ascoltatori, ma la famiglia rivendica questa cifra che era custodita nella casa che ha comprato, anzi che è riuscita ad ottenere tramite un'asta. Però non si può dire appunto che la cifra appartenesse al patrimonio familiare, ma questo cambia qualcosa ai fini dell'ottenimento di questo ritrovamento, avvocato? Penso di no, perché che io mi ricordi ormai da molti anni è espirato il termine per poter convertire le lire in euro anche dopo l'entrata in vigore dell'euro come moneta corrente, per cui mi spiace dirlo, ma non sono ottimista sull'esito, ecco, del tentativo di recupero. Quindi questo ritrovamento non si può considerare alla stregua di un deposito dormiente, che potrebbe essere, come dire, la modalità utile per poter bussare alla porta di Consap ed eventualmente risvegliare questo rapporto. Non siamo in questo caso, avvocato, lo ribadiamo. Assolutamente no, i rapporti dormienti sono costituiti, diciamo, per una legge specifica che è la 266 del 2005 e nulla a che vedere con l'episodio che ha interessato questa famiglia. Nicoletta, allora ci sono. Mi spiace, però, esatto, infatti. O fai la prossima domanda all'avvocato oppure ascoltiamo gli amici da casa. Vero? Mi piacerebbe molto. Intanto 800240024, i messaggi al 349-238-6666 sì, stanno già arrivando. Esatto. Quindi io vorremmo dare tanti biglietti. Invece possiamo darne solo? Due. Però magari nel corso della settimana ne arriveranno altri, esatto, due. Siamo generosissime questa settimana. Allora andiamo a Teramo. Andiamo a Teramo, non sentiamo Stefano da Padova? Dai, prima Stefano. Facciamo un po' di suspense. Andiamo a Stefano, va, che subito si aggiudica questa visita a questa mostra Villa Pansa in provincia di Varese. Organizzata dal FAI. Esatto. Stefano, buongiorno. Buongiorno a voi. Quanto ha ritrovato la famiglia di Bologna, la famiglia Sacchi? Io avevo letto 41 milioni di lire. E lei aveva letto giusto, Stefano, perché appunto è proprio questo l'ammontare che la famiglia Sacchi ha ritrovato in questa, eccolo qua, infatti qua c'avevo un po' di attesa, ma Gianmarco non ritrovava subito gli applausi, in questa cassa abbandonata, e adesso appunto non si può più cambiare questo importo. Stavo intanto recuperando la notizia. Tutto nasce da un'asta giudiziaria in cui la famiglia Sacchi a fine 2011 si è aggiudicata questo casolare in aperta campagna alle porte di Bologna. Dopo che abbiamo rilevato l'immobile, hanno raccontato: siamo andati lì per sistemarlo, lo stabile era rovinato, vuoto da anni, con dentro solo qualche mobile vecchio, ma giù in cantina ecco che è spuntato un tesoro. Abbiamo trovato questa specie di rientranza, un'intercapedine dentro la quale si nascondeva una vecchia cassa con il contenuto di 41 Vedi. Milioni di vecchie banconote. Però praticamente sono carta straccia, avvocato Ascioti, o potrebbero in qualche modo vendere queste banconote ai collezionisti? Insomma, che cosa se ne possono fare di questi 41 milioni? Non mi sembra male l'idea di venderla ai collezionisti, ammesso che queste banconote abbiano un valore, diciamo, appunto collezionistico. Sicuramente banconote lire, in lire molto vecchie, tipo le vecchissime, quelle grandissime banconote da 10.000 lire, eccetera, che io sappia hanno un valore molto elevato. Non so queste di che tipo sono queste banconote che hanno. Già, certo. Infatti, un ascoltatore, Deborah, al 349-238-6666, scrive: consiglio alla famiglia che ha trovato i 41 milioni di tenerli buoni, se va avanti così gli ritorneranno utili. Diciamo che è ancora, come dire, che la battaglia sul ritorno alla lira, spero che ormai chi la stava facendo l'abbia abbandonata. Qualcuno, esatto, ancora però accarezza. Senti, l'idea. Non mangiano né bevono, ecco, che li tengano lì, esatto, no, avvocato Ascioti. Alla ricerca di qualche collezionista, che forse magari trovano effettivamente qualcuno che vuole appunto mettere le mani su questo tesoro da altri punti di vista. Come dicevamo però, avvocato, anche se non ci si trova di fronte a banconote da altri tempi. Capita spesso di sentire notizie simili, no? Di ritrovamenti in vecchi cassetti, di piccoli tesoretti. E sono i cosiddetti rapporti dormienti, conti, libretti, polizze che ci dimentichiamo di aver sottoscritto, che magari sono stati sottoscritti a nostra insaputa e che magari ritroviamo dopo decenni. Non è sempre chiaro se chi ritrovi i contanti o i documenti siano nel diritto di rivendicare queste somme, o forse una volta che uno si ritrova nella situazione il tentativo di recuperare chiaramente lo fanno, come biasimarlo, certo, d'altronde. Assolutamente. Allora, intanto, altra domanda agli ascoltatori: se è successo anche a voi di trovare un tesoro in casa vostra, 800 24 00 24, raccontateci di che tipo di somma o di deposito si trattava e se siete riusciti ad incassarla o quant'altro. Direi che questo è quanto è accaduto a Mario. A Mario da Teramo. Buongiorno. Hanno messo diverse vocali. Buongiorno. Le nostre ragazze del centro. Buongiorno Mario. Buongiorno a voi. Ci racconti. Allora, senti, io quando ho chiamato non sapevo che nei vostri studi c'era un avvocato della Consap. Sì. Giusto? Sì. Ecco, ma infatti, perché la mia telefonata era solo per manifestare il mio compiacimento all'operato della Consap, perché io lavoro in un ente. Noi abbiamo ritrovato, ci siamo trovati con un libretto di deposito datato, molto datato, che era... Quanto era, Mario? Quanto datato? Beh, oltre 10 anni. Ah, vabbè, neanche sì. Tantissimo direi. Sì, no. Però comunque sì, ma rientrava nella fattispecie che era prevista dalla legge 266 del 2005. E devo dire che noi siamo riusciti nel giro di... parliamo comunque per un ente pubblico, è una somma importante, quasi 42. Ah, quindi non era una cosa sua personale, Mario? No, io era solo per manifestare il compiacimento, perché siccome degli enti pubblici e delle pubbliche amministrazioni si parla sempre male. Ecco, Mario, bravo. Invece lei ha telefonato per dire che lavorano bene. Ho telefonato nel giro di 7-8 mesi, grazie anche alla collaborazione della Consap, di un funzionario in particolare di cui non faccio il nome, siamo riusciti a rientrare in possesso di questa somma. E quindi ecco, era solo per... io poi non sapevo che nei vostri studi c'era l'avvocato Asciotti di Consap. Grazie. Certo. Mi compiaccio per il loro operato. Mario, la ringrazio. Allora, di questo operato noi vogliamo sapere qualcosa di più per capire, qualora si ritrovasse appunto un libretto dormiente all'interno di un nostro cassetto segreto, quali passi bisogna fare, avvocato Asciotti, per risvegliare queste somme, ma soprattutto per capire se siamo nel diritto di risvegliarle. Ci spiega un po' il percorso che si fa, visto che siete così bravi? Oltretutto, lei l'ultima volta venuto da noi a Cuore Denari, avvocato Asciotti, ci aveva detto anche quanti rapporti dormienti risvegliate mensilmente. Sono migliaia. Sì, esatto. Allora, guardi, innanzitutto volevo ringraziare l'ascoltatore di Teramo per le belle parole che ci ha rivolto. Per noi saranno uno stimolo a, se possibile, migliorare ancora il nostro operato. In secondo luogo, venendo alla questione, io guardi, non mi stancherò mai di dire che non tutti i rapporti di cui alla legge 266 sono dormienti. La definizione di rapporti dormienti è decisamente impropria. In pratica la legge 266 ha stabilito che tutta una serie di rapporti che giacciono presso quelle figure che noi chiamiamo intermediari, che possono essere banche, poste, assicurazioni e così via, vanno acquisiti allo Stato. Questo tra l'altro in analogia con quanto avviene nel resto d'Europa. Però tra questi rapporti, quelli dormienti, nel senso che sono risvegliabili e quindi riscuotibili da parte degli aventi diritto, intestatari o altro che siano, sono solo una categoria, non tutti. Gli altri rapporti non sono dormienti, sono prescritti a tutti gli effetti di legge. Per cui questi rapporti non sono assolutamente ripetibili da parte degli intestatari. I rapporti dormienti veri e propri sono quelli per i quali la legge non stabilisce termini di prescrizione, ovvero ha stabilito termini di prescrizione che sono ancora in corso e come tale sono risvegliabili, certo. Ma sono ben tipizzati. Questi sono i conti correnti bancari, libretti o certificati di deposito, fondi di investimento, e praticamente basta. Quindi assegni e gli assegni circolari, attenzione, assegni circolari che può chiedere solamente colui che ne ha richiesto l'emissione, perché per colui che invece era beneficiario dell'assegno il diritto relativo si è invariabilmente prescritto dopo 3 anni. Quindi mi faccia capire, qualora io avessi firmato un assegno circolare per Nicoletta e lei si è dimenticata di andare a riscuoterlo, come sempre, vedi, ecco, io potrei rivendicarlo ma non lei, giusto? Allora, succede così esattamente, dopo 3 anni la banca ha dovuto riversare l'assegno al fondo per le vittime dei crack finanziari. Sì. La signora Nicoletta, beneficiaria dell'assegno, può più riscuoterlo perché per lei il diritto è irrimediabilmente prescritto. Lei invece, che ne ha richiesto l'emissione, ha dalla data dell'assegno 10 anni per poterne chiedere la restituzione. Anche se l'ammontare nel frattempo è stato devoluto al fondo che lei citava. Io ho il diritto di risvegliarlo, non nella beneficiaria. Esatto. Insomma, io, avvocato, rimango sempre a bocca asciutta. Ecco, la morale della favola è questa qua, pazienza. Esatto, però insomma con questo esempio del tutto fittizio abbiamo cercato di spiegare cosa succederebbe qualora in giro ci fosse questo assegno circolare, però appunto gli strumenti di investimento e di risparmio oggetto di dormiveglia sono anche altri, come ci stanno segnalando i nostri ascoltatori, per cui noi questa mattina, traendo spunto dal caso della famiglia di Bologna, abbiamo ritenuto appunto che fosse carino rifare un riepilogo della situazione, risvegliare l'argomento, risvegliare l'attenzione sull'argomento. Oh, mamma mia. Dove andiamo? Sandro, dalla provincia di Roma, e poi saliamo a Udine perché c'è Fabio, ma noi aspettiamo anche la nostra donna di cuore denari di oggi, che non l'abbiamo ancora sentita. 800 24 00 24, l'ascoltatrice donna di cuore denari. Ah, già, infatti sai che ti stavo guardando, dico, Sandro, ma c'è un ospite. Buongiorno. Dico, mi sono dimenticata. Sarà il nostro ospite d'onore. Ecco. 800 24 00 24, le invitiamo. Sandro, buongiorno, benvenuta. Buongiorno a lei, Nicoletta. Buongiorno. È inutile fare premesse di complimenti perché è inutile che vi lo dica di nuovo, è eccezionale la vostra trasmissione, io la seguo spessissimo perché mi sposto con la macchina, quindi vi seguo. Bravo. La domanda è questa, il mio dubbio è questo adesso, ho sentito il vostro esperto, prescrizione o dormiente? Sì. La domanda precisa riguarda i titoli postali e le spiego, le faccio una brevissima premessa. Io 25 anni fa circa ho dovuto emettere un buono fruttifero postale per poter acquisire delle licenze da parte della questura, eccetera. Poi, in seguito ad un incendio, ho perduto la fotocopia di questo titolo, il mio titolo praticamente, la copia che avevo in possesso io, e pur richiedendo all'ufficio delle poste italiane questa possibilità di incassare dopo 10 anni, quindi sarà anche lievitata, eccetera, questo buono fruttifero, mi si risponde sempre che sì, si stanno facendo ricerche, ma non si trova. Allora, la domanda che io pongo a voi e all'esperto di turno è questa. C'è una possibilità di rivolgersi a qualche personalità giuridica o che sia per poter avere una risposta da queste benedette poste italiane? Domanda. Allora, beh, intanto possiamo sicuramente girare noi all'ufficio stampa il suo caso, anzi, guardi Sandro, se lei ce lo volesse descrivere nel dettaglio con una mail, io comincio un po' a tormentarli, perché mi diverto naturalmente, sono anche certa che ci stanno ascoltando questa mattina, per cui sicuramente anche noi le diamo una mano per quello che possiamo, chiaramente. Detto questo, abbiamo stamattina l'avvocato Asciotti di Consap che ci spiegherà come funziona per i buoni fruttiferi postali in termini generali, poi andiamo a questo caso complicato di cui il nostro Sandro, poveretto, ha perso anche la fotocopia appunto del titolo in un incendio. Avvocato Asciotti, che cosa ci dice su questo caso? Allora, in buoni fruttiferi postali, purtroppo per il signore che ha chiamato, non costituiscono rapporti dormienti, quindi non sono rimborsabili. Fanno parte della categoria dei rapporti irrimediabilmente prescritti. Qualunque osservazione al riguardo non va quindi rivolta a Consap, quale gestore di questa funzione di rimborso, ma va rivolta all'ente a cui faceva capo questo rapporto. E credo che se volessero le poste, forse una iniziativa a favore dell'ascoltatore potrebbero farla, ricostruire l'importo, la vita appunto di questo titolo, eventualmente attualizzare il suo valore. Avvocato, però ecco, dipende tutto dalla volontà dell'amministrazione postale. Assolutamente, sì, questo dipende ovviamente dall'arbitrio, diciamo, e dai criteri gestionali dell'intermediario. Io so solamente che se un intermediario fino alla legge del 2005 poteva, tra virgolette, gestire in relazione comunicazione alla propria clientela anche la prescrizione di un titolo, che come noto la prescrizione non è un istituto assoluto, va eccepito solo da chi ne ha interesse. Se prima del 2005 l'intermediario era nelle condizioni di poter non avvalersi del diritto dell'eccezione di prescrizione, e dopo la legge del 2005 l'intermediario ha perduto questa possibilità, perché ha dovuto devolvere il rapporto prescritto a questo fondo Ministero dell'Economia. Tra l'altro, questo fondo in che misure è alimentato oggi, avvocato Asciotti? Quanto contiene e come dire, la sua destinazione finale viene rispettata? Guardi, questo è un, tema molto interessante, perché andava questo denaro alle vittime dei crack finanziari, non so quanto siano stati risarciti oggi. Allora, di questo non ho idea, se può servire come stura nei calcoli che noi abbiamo istruito domande di rimborso in 4 anni per un totale di quasi 210 milioni di euro. E questa è solamente diciamo la parte dormiente. La maggior parte di questi rapporti non sono dormienti, sono prescritti, certo. Quindi presumo che le dotazioni di questo fondo siano ben, ben più elevate. Allora, a te la scelta. Allora, abbiamo Fabio dalla provincia di Udine. Fabio, buongiorno, mi faccia sentire la sua voce. Sì, buongiorno, eccoci. Ecco. Fabio da Udine, anche se a Udine ci rimango ben poco. Peccato, allora, perché è una bella città. Senta Fabio, le propongo un'idea. Che dice se viene con noi a sentire i mercati e poi torniamo subito dopo? Attendo senza problemi. Grazie Fabio. Cuore e denari. C'è una sola cosa al mondo che il denaro non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Walt Disney. Ci rassicurano, ci tengono compagnia, ci fanno divertire, ci sanno capire quando siamo tristi e ci sanno stare vicino senza giudicarci. Così giorno dopo giorno si trasformano da animali di compagnia a membri della famiglia a tutti gli effetti. Dei nostri amici animali, che sono per molti di noi un vero tesoro, parleremo nella seconda parte della nostra trasmissione, quindi iniziate a prenotare i vostri interventi. 800 24 00 24, diteci se state pensando di portarli in vacanza con voi. Vi aspettiamo. Mentre dormi ti proteggo e ti sfioro con le dita, ti respiro e ti trattengo. Anche i denari dormono, abbiamo già dedicato molte puntate a questo tema, oggi ci siamo ritornati perché ci aveva incuriosito questa storia di questa famiglia di Bologna che ha ritrovato in una cantina di un casolare, che si sono aggiudicati appunto queste persone all'asta, un intercapedine dove hanno appunto ritrovato questo tesoretto da 41 milioni delle vecchie lire che oggi non riescono più a cambiare. Ma ci sono tante notizie sempre su questo tema che ogni giorno leggiamo sui giornali. Recentemente lo IOR ha chiuso i rapporti di circa 3.000 clienti, 2.600 per la precisione, con conti da tempo non operativi e sui quali sono stati riscontrati saldi di minima entità. Conti dormienti li possiamo enucleare appunto all'interno della fattispecie della quale parliamo questa mattina. Ne parleremo tra un attimo con il nostro ospite, l'avvocato Asciotti della Consap, ma avevamo in sospeso Fabio, che ci chiama dalla provincia di Udine, anche se a Udine sta un po' poco. Fabio, buongiorno. Buongiorno, i complimenti sono sottintesi. Dite, cuore denari, le dico, quando mia madre ha sentito parlare di denari il suo cuore è andato in fibrillazione. Cercavo questo buono fruttifero per sapere bene il nome, il termine da utilizzare, ma non lo trovavo, nella confusione. Allora le spiego, anche noi abbiamo trovato, la mia famiglia ha trovato dei buoni, penso fruttiferi postali, perché mio nonno li comprò in posta nel 42. E dovrebbero essere scaduti nel 72, adesso io ve l'ho visto. Quindi trentennali. Sì, cercando di chiamarli, purtroppo non ho ascoltato, magari la risposta è stata fatta anche precedentemente. E ribadiamo, non si preoccupi. Ecco, in sostanza cioè, abbiamo questi buoni fruttiferi che in teoria dovrebbero avere un valore interessante e volevo solo capire se sono ancora validi oppure se sono andati in prescrizione. Allora, avvocata Scioti, purtroppo temo di dover dare la medesima risposta dell'ascoltatore precedente anche al nostro amico di Udine. Per i buoni fruttiferi postali scaduti nel 72 ormai abbiamo ben superato tutti i termini di prescrizione, quindi a meno che l'amministrazione postale in un impeto di generosità non decida in ogni caso di attualizzare questo valore e restituire, l'ascoltatore non può far nulla. Esattamente così, sì. Cioè, più secco, cioè precisissimo, l'avvocato Asciotti non spende altre parole. Ma senta, ma perché adesso io non mi ricordo la legge esattamente anche da questo punto di vista cosa contemplasse, per quale motivo per i buoni fruttiferi postali, come dire, c'è questa rigidità, non si può risvegliare nulla? Adesso a prescindere... Non è una questione di rigidità, è una questione, ripeto, di decorso della prescrizione. La legge 2005 non ha fatto altro che spostare la destinazione di queste somme, tra virgolette, prescritte, dall'intermediario a questo fondo per le vittime dei crack finanziari, ma per il titolare del rapporto non è cambiato nulla, come il titolo era prescritto prima del 2005, resta prescritto dopo il 2005. Certo. Ho detto prima, non confondiamo prescrizione con dormienza. I rapporti dormienti sono quelli che a norma dei principi fondamentali dell'ordinamento non sono prescritti. Non sono prescritti. Guardi, l'esempio classico è il conto corrente bancario. Ecco. Io posso avere un conto corrente bancario che non attivo per 10 anni, in realtà il mio deve avere 10 per 100 anni. In realtà i miei diritti non si sono prescritti perché per il conto corrente bancario non è previsto l'istituto della prescrizione. Certo, come i fondi di investimento e i libretti di risparmio, giusto? Esatto, come i libretti e come i fondi di investimento. Tutti gli altri istituti che vanno a confluire a questo fondo attraverso questa devoluzione imposta per legge, in realtà sono somme prescritte. Il titolare non cambia nulla, certo. I soldi li ha persi, sia che questi sia che restassero prima del 2005 presso la banca o presso l'assicurazione o presso le poste, sia che dopo del 2005 questi soldi siano affluiti al fondo. Anca, hai visto Angela da Palermo cosa ci scrive? Il secondo messaggio in ordine, diciamo, di arrivo. Sì, mia madre è morta 1 anno e 4 mesi fa, sistemando casa sua ha ritrovato i risparmi della sua intera vita, circa 12 milioni di lire in banconote da 100.000, ho speranze per il cambio, altrimenti cosa posso fare? Valgono credo i suggerimenti per la famiglia di Bologna, no? Avvocato Asciotti, o collezionisti o altrimenti... Li incorniciano questi soldi, adesso non vorrei fare anche battute di cattivo gusto, ma avvocato, mi dica. No, stavo pensando appunto ad Angela da Palermo, 12 milioni di lire in banconota da 100.000, i risparmi di una vita della sua mamma morta 1 anno fa, niente. Senz'altro, l'ipotesi è perfettamente identica a quella esaminata all'inizio, diciamo, di Bologna. Della famiglia di Bologna. Ma nulla a che vedere questa ipotesi, certo, né con la legge la disciplina 26, né con i rapporti dormienti, né con i rapporti prescritti. Questo è proprio tutta un'altra cosa. Questo riguarda l'impossibilità di cambiare queste vecchie lire in euro. Infatti, un ascoltatore ci scrive: Paperon de Paperoni da sempre insegna la giusta via. Oro, oro, oro, tenere in banca il minimo e convertire tutto il resto in oro. Materassi pieni d'oro. No, invece Anna da Milano, avvocato Asciotti, ci scrive: vorrei chiedere all'esperto se la Consap, come promessomi con raccomandata, che ad aprile avrebbe reso il mio conto dormiente, il messaggio scritto non in maniera appunto precisa, oggi però non ci è arrivato nulla, sono attualmente disoccupata e i miei soldi sarebbero utili. Ecco, ci dice un po' i tempi del risveglio, qualora appunto una persona che magari sta ascoltando avesse una situazione tale da poter essere risvegliata. Avvocato, allora qual è la procedura, perché prima non l'abbiamo detta? Guardi, io la ringrazio di questa domanda perché mi consente di dire ciò che mi sta più a cuore. Allora, noi contiamo per la rapidità e l'efficienza del nostro operato sulla collaborazione degli istanti. Allora, sul nostro sito viene dettagliatamente indicato, a parte che c'è proprio il modulo prestampato di domanda, viene dettagliatamente indicato che cosa serve, perché non basta fare la domanda, questa domanda va corredata di determinati documenti, che poi non sono tanti, ma documento d'identità, il codice fiscale e soprattutto l'attestazione di avvenuta devoluzione, da rilasciarsi del tutto gratuitamente da parte dell'intermediario che le somme ha devoluto al fondo. Mm. Allora, se la domanda ci arriva completa, oltretutto nella domanda è indicato anche lo spazio per indicare il proprio codice IBAN ai fini di procedere al rimborso, se la domanda perviene completa, io le assicuro che i tempi di rimborso sono ben più rapidi di quelli in cui si è trovato quel signore di Teramo, perché ben prima di 7-8 mesi, noi oggi una domanda completa siamo in grado di esaudirla nell'arco di 2-3 mesi. Mm-hmm. Se la domanda è incompleta, se la domanda per qualche motivo certo, è incompleta, lì parte un tira e molla. La prima conseguenza è che l'istante perde l'ordine cronologico che noi siamo rigorosamente tenuti a rispettare. E poi dipende da quanto tempo l'istante impiega a mandarci la documentazione. Tra l'altro, nel frattempo io ho aperto il sito di Consap e sto proprio aprendo un facsimile appunto della modulistica che va compilata, peraltro una paginetta di richiesta, niente di particolarmente complicato. Ma secondo lei, avvocato Ascioti, è bene che questa domanda, l'astante, come lei mi pare l'abbia definito appunto, la compili da solo, si faccia aiutare magari dall'interno intermediario presso il quale il rapporto era aperto? Guardi, molto sinceramente dipende dalla figura dell'istante e direi dalla complessità del rapporto. Ritengo che se il rapporto sia sostanzialmente semplice, in un conto corrente bancario per fare un esempio, e l'istante abbia normali cognizioni di base, è benissimo in grado di farlo da solo. Se il rapporto è più complesso, l'istante ha magari scarsa dimestichezza con determinate tecnologie, terminologie che per quanto possano essere semplificate, comunque un minimo di tecnicità ce l'hanno, in questo caso suggerisco di farsi assistere. Ma prima di scomodare entità eccetera, magari anche da un congiunto, da un parente che magari abbia più familiarità con la terminologia bancaria, quella che sia. Avvocato, le faccio una domanda, mi scambio un po' con Deborah, faccio la donna di denari, per chiederle: queste procedure immagino abbiano un costo, bisognerebbe capire anche se il gioco vale la candela, quanto costa attivarle? Guardi, la procedura sinceramente non ha costi particolari. Eventuali costi possono derivare solamente dalla necessità di autenticare o far autenticare determinati documenti. Faccio un esempio: se il titolare del rapporto è deceduto e nel rapporto sono succeduti legittimamente gli eredi, questi eredi devono presentare un atto di successione, devono farsi autenticare la firma sull'istanza, sulle varie dichiarazioni che devono nascere, per cui un minimo di costi, chiamiamoli amministrativi, a carico del cittadino, solo in questi casi ci possono essere. Poi la valutazione della convenienza del sostenerli è del cittadino. Certo che se io ho la prospettiva di recuperare 10.000 euro e il tutto, compreso notai, questo e quell'altro, mi viene a costare 500 euro, avrò interesse. Certo. Devo spendere 500 euro per recuperarmi 150, non ho più interesse. Evidentemente. Va da sé, insomma. E quindi, insomma, intanto un primo suggerimento per tutti quelli che... tu hai mai trovato qualcosa? Ma figurati. Avvocato, lei ha mai trovato qualcosa? Per me no, nonostante abbia citato col nome mio, col nome dei miei antenati, no. Tra l'altro, un altro caso complesso nel quale si sono imbattuti anche molti ascoltatori, me lo ricordo dalle puntate precedenti, è chi invece nel frattempo, avvocato Ascioti, ha smarrito la banca, perché in questi ultimi anni di operazioni di fusioni, aggregazioni bancarie, qualcuno ha perso il suo sportello e in realtà il conto, magari avendo anche le caratteristiche per poter essere risvegliato, non può essere risvegliato perché non si ritrova più la banca alla quale rivolgersi. In quel caso, voi cosa suggerite di fare? Allora, mi consenta, scusi, di finire solo sulla domanda precedente. Sì. Una precisazione: Consap non ha né Consap né il Ministero dell'Economia hanno mai incaricato o demandato qualsivoglia soggetto terzo di assistere gli istanti, quindi qualsiasi persona si presenti da chi avanza domanda di rimborso spacciandosi per incaricato di chi che sia e pretenda delle somme, cioè non è... Perché è successo anche questo, avvocato? Vi risulta che qualcuno parli per conto vostro per il recupero di queste somme? Come sempre c'è sempre qualcuno che qualche sciacallo, insomma, qualche avvoltoio che si approfitta anche di questo. Devo dire molto raro il fenomeno, però ci però meglio saperlo, certo. Ha fatto bene, avvocato. Allora noi invitiamo al discorso delle banche, sì, vero. Bisogna che l'interessato si informi di come si chiama la struttura che precedentemente aveva un nome diverso e poi che per fusione, trasformazione eccetera si è conglobata in una nuova entità. Quello che le posso dire è questo: non abbiamo avuto casi di rapporti smarriti presso l'intermediario. Magari sarà stato più difficile ricostruirli, certo. Sono sempre stati trovati. Allora, noi dobbiamo andare a parlare adesso di altri tesori. Sì, ma abbiamo Giusy che si chiama d'Arezzo. La facciamo, la sentiamo, poi le rispondiamo magari dopo i suggerimenti per chi è in viaggio. Va e poi... bene. Giusy, buongiorno. Buongiorno. Mi sa che però qua dobbiamo ripetere la medesima risposta data in precedenza. Giusy, eccoci. Mia madre ha sottoscritto dei buoni fruttiferi nel 96, con scadenze ventennali, quindi mi hanno detto alle poste che dovrebbero scadere tra 2 anni. Nel 2016, sì. Sì, così. Essendo il lire non è che c'è nessun problema. Ah no, qui pensavo che fosse un prodotto sottoscritto molto più tempo fa. Avvocato Asciotti, qua siamo tranquilli, ci mancherebbe, va a naturale sono scadenza. Sono belli svegli. Sì. E poi riscuote. Sì, perché il rapporto non è scaduto, quindi non, le poste penso non abbiano devoluto questo rapporto al fondo. Ci mancherebbe pure. Anche lo avessero devoluto avrebbero sbagliato, anche in quel caso ci sarebbe rimedio. Credo che Giusy abbia solo manifestato un dubbio che ha per il fatto che essendo stati sottoscritti nel 94 in lire oggi ci mancherebbe. Giusy, però vada a sentire. Ci mancherebbe altro. Giusy, vada a sentire in posta, li metta un po' sotto pressione. Svegli, svegliissimi. altro che. Allora, grazie avvocato Asciotti per essere stato con noi. Al prossimo caso che ritroveremo su qualche giornale, qualche curiosità, torneremo a contattarla. Buona giornata intanto. Buona giornata, buone vacanze. E buone vacanze. Grazie altrettanto, arrivederci, a presto. Cuore e denari. Un cane non se ne fa niente di macchine costose, case grandi o vestiti firmati. Un bastone marcio per lui è sufficiente. A un cane non importa se sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido. Se gli dai il tuo cuore, lui ti darà il suo. Di quante persone si può dire lo stesso? Quante persone ti fanno sentire unico, puro, speciale? Quante persone possono farti sentire straordinario? E noi parliamo di un altro tesoro che molti di noi hanno trovato per strada, altri sono andati a cercare in un canile, in un gattile. È un'occasione per parlare dei nostri amici animali, per raccontare storie di amicizia, di fedeltà, ma anche per avere tanti consigli per garantire sia a noi che a loro una convivenza, direi, a 5 stelle. Allora proveremo a capire qualcosa di più dei nostri amici, cercheremo di conoscerli meglio, provando un po' a metterci nei loro panni. Loro sicuramente ci rendono felice, ma noi siamo sicuri di ripagarli con la stessa moneta? Le vacanze, ad esempio, si avvicinano. Voi come vi organizzerete? 800 24 00 24. In linea con noi abbiamo il piacere di avere la dottoressa Lorella Notari, che è anche un'esperta del nostro Daily Lab. È vero. È medico, veterinario, esperto in comportamento e specialista europeo in medicina comportamentale di Varese. Buongiorno, dottoressa Notari. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Con buongiorno. Quanti animali vive lei? Ce l'ha già raccontato una volta, ma a parte figli e mariti, dico. Abbiamo una giornata. aggiornamento? No, siamo sempre a due cani, il gatto e un po' di pesci nella fontana in giardino. Quindi oltre che da esperta potrà parlare anche con noi per un'esperienza di vita vissuta. Dottoressa Notari, negli ultimi anni si assiste a una umanizzazione dei nostri amici, tanto che viene naturale anche domandarsene un po' le ragioni, che sono state più volte affrontate e spiegate da psicoterapeuti, da sociologi, ma oggi vorremmo anche chiederci se tutto questo affetto che noi diamo ai nostri amici gli fa bene, o se in qualche modo devono subire un po' tutte queste attenzioni, perché insomma i cani e i gatti sono nati per fare altre cose, sono nati uno per fare la guardia, l'altro il gatto cacciava i topi, adesso sono diventati un po' i nostri giocattolini, sostituiscono anche i bambini nelle coppie che non hanno figli, insomma mi rendo conto io per prima, io ho questo cagnone Mona, che salutiamo con affetto, che si siede con mai me avuto sul anche divano, il criceto nella ho tua avuto vita. Criceti, ho avuto io gatti rossi, ho avuto cani di tutte le taglie, di tutte le dimensioni, trovati nei modi più strani, mi rendo conto e faccio un mea culpa che in effetti qualche cosa è cambiato. Dottoressa Notari. Sì, qualcosa è cambiato, devo un po' contraddirla, nel senso che in effetti i cani invece sono proprio nati per vivere con noi e collaborare con noi. Questo mi fa sentire meno in colpa. Il problema nostro è che cambiamo molto velocemente i nostri stili di vita e quindi il loro modo di aiutarci qualche volta fa fatica, arranca a stare dietro a quello che noi facciamo, quindi alla fine diciamo che il loro ruolo principale è sempre quello di farci compagnia. Con tutto, giustamente nell'introduzione c'era quel bellissimo brano letto, loro si accontentano anche di poco. I gatti sono un altro mondo, però è anche vero che il gatto è amato anche perché è un soggetto indipendente, no? Per cui viene anche rispettato di più dal punto di vista della specie, a parte il fatto di essere quelli che non possono uscire molto sottostimolati in alcune situazioni, ma comunque diciamo che il cane invece è proprio nato per collaborare con noi, stare con noi, aiutarci a fare le cose. Questo spesso è un po' un problema, nel senso che non gli facciamo far niente, non li coinvolgiamo abbastanza, magari ci fissiamo nel fare le cose per loro invece che fare le cose con loro. E invece oggi lei darà proprio consigli a noi per capire che cosa possiamo fare con loro, che cosa possiamo far fare anche ai nostri animali, non solo, come sottolineava lei, fare noi per loro. Abbiamo già qualche ascoltatore sulla linea 3, esattamente, Deborah. Sì, ecco, eccolo là. Allora, ma come le è venuto in mente di chiamarsi Aguinaldo dalla provincia di Roma? Buongiorno. Buongiorno a voi. In due parole, mio nonno amava scrivere romanzi storici. Aguinaldo deriva dal tedesco, dal germanico antico, ed è composto da Aguin e da Aldo. Gli Aldi erano dei guerrieri. Aguin, la trascrizione fonetica del latino equus, il cavallo, quindi praticamente Aguinaldo vuol dire guerriero a cavallo. Guerriero a cavallo. Quindi l'amore per gli animali è nel nome. Prego. L'animale è nel nome anche, no? L'amore lei... per l'animale. Certo. Inevitabilmente mi ritrovo oggi con 12 cani e 4 gatti. Caspita, bell'impegno. Dopo varie vicissitudini ho abbandonato casa, cioè sono stato abbandonato, diciamo, da mondi, figli, case, eccetera, eccetera, quattro soldi che mi erano rimasti, ho comprato un camper, ho trovato un terreno privato abbandonato, qui c'erano 8 cani che vivevano così saltuariamente con qualcuno che veniva a portargli da mangiare, e io con i miei 4 cani, adesso siamo io e 12 cani, e ho imparato moltissimo, anche perché dopo le mie vicissitudini mi sentivo un po' giù, diciamo, per farla breve. Invece il dovere di accudire tutto questo branco con tutte le loro relazioni, a volte anche conflittuali, mi ha aiutato molto a ragionare anche su me stesso. Ho trovato una specie di purificazione della mia rabbia verso la vita dopo quello che mi era successo, mi sono calmato, ho imparato ad osservare gli animali, soprattutto appunto i cani, oltre che i 4 gatti che ho. E siccome voi avete anche giustamente stimolato a dare dei consigli, io ormai dopo 13 anni di esperienza posso chiedere a coloro che ci ascoltano, non quelli che già amano gli animali, ma quelli che ne hanno paura, di non avere alcuna paura, anche perché è controproducente, perché se noi abbiamo paura sviluppiamo adrenalina. Il cane che non conosciamo, che ci sta vicino, avverte questa adrenalina e naturalmente pensa che noi siamo potenzialmente aggressivi. Quindi il modo peggiore per avvicinare un cane è quello di averne paura. Trasmettere serenità. Grazie Guinaldo. Inoltre, se uno vede, vorrei concludere con un appello. Quando vedete un cane randagio per la strada, è sufficiente una telefonata al 113, loro vi mettono in contatto con il canile della vostra, del vostro comune, e loro hanno un servizio dedicato proprio all'individuazione, raccolta e custodia di questi cani randagi che altrimenti sono destinati a una brutta fine. Ecco, mi rivolgo a tutti per questo breve appello, diciamo. Grazie a Guinaldo. Che nel camper ha la radio, però. Vedi, e ci segue. È grande, grandissima Guinaldo. No, stavo pensando che però adesso forse molto meno del passato nelle città si vedono cani randagi, no? Quindi diciamo oggi c'è stato... C'è da qualche tempo a questa parte però un maggior controllo. Però il randagismo è ancora una piaga nel sud del nostro paese, lo sa bene la nostra prossima ospita, Carla Rocchi, che è presidente dell'ENPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno, presidente. Cani randagi, il tema è stato introdotto dal nostro ascoltatore che ci diceva: se vedete un cane randagi non abbiate paura, chiamate il 113. È giusta questa indicazione? Ed è vero che al sud ci sono ancora tanti cani randagi? È vera, sono vere entrambe le cose. Intanto il fatto che bisogna sfatare questa leggenda immeritata per queste povere creature che i randagi siano pericolosi. I randagi in quanto tali sfuggono all'uomo, nel senso che sono stati abbandonati e quindi girano, sembra strano, ma chi conosce i comportamenti dei cani capisce che il cane si vergogna, è come se si sentisse responsabile, cosa avrò fatto per essere stato abbandonato. Le morsicature di cui si parla tanto sono sempre morsicature o di cani padronali o di cani che erano in luoghi loro dove le persone sono capitate per caso. Proteggevano quindi il territorio. Proteggevano il loro territorio. Detto questo, che l'abbandono sia ancora una piaga è vero, anche se si tratta di un fenomeno in diminuzione, e cioè è in diminuzione il fenomeno dell'abbandono classico, cioè lego un cane al guardrail. È sempre invece troppo il fenomeno dei cani di campagna, quelli che non vengono sufficientemente accuditi, a cui non vengono sterilizzati, a cui si lascia fare una cucciolata e poi quella cucciolata costituisce il potenziale nuovo cane randagio. Insomma, è una questione di cultura da una parte e di disimpegno delle istituzioni. Dove le istituzioni hanno lavorato, il randagismo non esiste più. Ci sono regioni italiane dove non c'è più un randagio. Cuore e denari. Estate 1992, anno dell'Europa Unita, delle mie, delle tue vacanze. Come ogni caldo agosto, in giro per l'Italia a farci il culo arrosto. Dove andiamo? Ostia, Fregene, Rimini, Riccione. Un'altra bronzatura ed un'altra canzone legata ad una storia d'amore passeggera nata sopra bagnasciuga, già finita la sera dell'addio, non ci sentiamo. Pensa, ti chiamo, scrivi, ricordo, ti prego, ti amo, sì. Eccoci tornati insieme. L'amicizia non ha stagione. Chi abbandona un animale è punito dalla legge penale, ma abbandonare un animale significa tradire un amico, violare un imperativo morale che è quello di prendersi cura e di proteggere una creatura che dipende da noi, si fida di noi, di cui noi siamo responsabili. Per fortuna le campagne di sensibilizzazione, credo anche l'adozione del microchip, hanno limitato il fenomeno dell'abbandono. Lo ricordava anche Carla Rocchi, presidente ENPA, che è in linea con noi. Dottoressa Rocchi, però insomma i dati sono buoni, non bisogna abbassare la guardia, questo è il messaggio. Soprattutto il messaggio è quello che è stato possibile fare in metà del nostro paese dovrebbe essere possibile fare nell'altra metà. In realtà in questo campo non serve reinventare nulla, basta copiare quello che è stato fatto bene altrove, però sembra tanto difficile in certi posti. Ecco, quali sono i casi particolarmente virtuosi, presidente Rocchi, se ce li vuole raccontare? Poi tra l'altro, visto che ormai siamo un po' tutti in procinto di partire, anche se quest'anno, come abbiamo raccontato nella puntata di ieri, molti italiani faranno una vacanza breve, e comunque si moltiplicano, ne leggiamo tutti i giorni sui giornali, gli stabilimenti che facilitano l'accesso ai cani, segno che qualcosa sta cambiando anche da questo punto di vista. Lungo lo stivale, laddove non ci sono spiagge a misura di fido, i comuni comunque si attrezzano. Presidente, che state sarà? Ma sarà un'estate migliore della precedente e credo in progressione sempre migliori quelle che verranno, perché gli operatori turistici hanno capito una cosa, che le persone si muovono con i loro animali, considerando che più della metà delle famiglie italiane hanno in casa uno o più animali, Se si vuole non perdere questo bacino di potenziali clienti, bisogna fare in maniera che siano accolti con i loro animali, perché questo è quello che desiderano, e difatti sono in crescita esponenziale gli hotel, i bed and breakfast, i campeggi, e perfino le case vacanza che ospitano animali, e le persone si muovono serenamente con queste creature al seguito, non c'è una necessità. E come se, immaginiamo se gli operatori turistici avessero detto fino a ieri si ospitano persone ma senza i bambini. Sarebbe stato intollerabile. E, certo. E per le persone che hanno animali è un po' una cosa simile. Allora, vi ricordo che ci sono tanti siti, esatto, in cui si possono anche trovare gli indirizzi di alberghi, bed and breakfast, case e vacanze che ospitano anche i nostri animali, tantissimi, uno per tutti, www.vacanzebestiali, che lo ricordiamo, dove potete trovare anche tante informazioni utili della serie Bipede informato, quattro zampe salvato. Grazie alla dottoressa Rocchi per essere stata con noi. Buongiorno Presidente. Grazie. Arrivederci, a risentirci. La vostra sensibilità, grazie. Grazie a lei. Dottoressa Notari, come lo vede il cane in spiaggia lei? Lo vedo che dipende dal cane, dipende dal proprietario e dipende dalle ore in cui lo si porta. Queste spiagge per cani sono una cosa molto bella, perché mm-hmm. finalmente c'è anche una possibilità, però questa non deve essere una scusa per i proprietari per non incontrare i bisogni del cane, che ha bisogno di correre, di muoversi, non sotto il sole camminando sulla sabbia bollente. Quindi se uno va in vacanza col cane, comunque si deve organizzare, alzarsi presto la mattina per fare passeggiate, la sera eccetera. Ci sono dei cani che sono particolarmente sensibili al caldo, per esempio i cani brachicefali non vanno tenuti in spiaggia assolutamente nelle ore più calde, perché veramente fanno fatica a eliminare il calore. Sapete, i cani non sudano, quindi eliminano il calore solo attraverso la respirazione, la linguetta. Quindi questi cani con i musi un po' schiacciati, i cani anziani eccetera, vanno trattati con molta cura. E poi dopo ci sono stabilimenti balneari e stabilimenti balneari, ce ne sono di quelli che hanno addirittura il recintino, sono, esatto, organizzatissimi. Ha fatto bene a ricordarlo, perché già si è scatenato il dibattito fra gli SMS, fra chi naturalmente è un grande sostenitore dell'essere accompagnato in spiaggia dal proprio animale e chi invece ritiene che non sia una presenza igienica. Ma se c'è la delimitazione da parte dello stabilimento balneare, perché no? Assolutamente. Dottoressa Notari. Sì, allora diciamo che è sempre il proprietario che dovrebbe essere un po' cosciente di quello che fa e rispettare gli altri, perché è chiaro che io per esempio sono tanti anni che mi porto i cani in spiaggia in Sardegna, cercando quelle spiagge un po' deserte, diciamo. La nostra regola è sempre cammina, dove vedi nudisti puoi fermarti col cane. Ah sì, si passa questo? Naturalmente devi avere un cane che, per esempio io ho una retriever che ovviamente adora l'acqua, quindi sta, certo, molto in acqua. Se avessi invece per esempio un bulldog inglese, non mi sognerei di fare una cosa del genere. Andiamo ad Antonio, che ci chiama dalla provincia di Monza, e poi leggo il messaggio di Carmen. Antonio, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Grazie. Buongiorno. Io sono esattamente all'opposto di questa signora che ha appena parlato. Io ho un cane, lo tengo a, nel momento che vado al mare lo do a un fratello che mi dà il cambio di stagione, e non mi sognerei mai di portarlo al mare. Uno, perché io soffro di psoriasi, ho necessità di camminare perché in forma anche artropatica, e sulla sabbia ho incrociato più volte gli escrementi. La legge in tutta Italia per quanto riguarda sia il bagnasciuga che la spiaggia fa divieto assoluto di presenza di qualsiasi animale, salvo il cane per i ciechi, e badi bene, di salvataggio esclusivamente per il tempo del salvataggio, punto. Tutto questo parlare fumoso lascia nel dubbio sempre la gente che si possa fare, non si può fare. È come le nostre città, che abbiamo nelle aiuole recinte dove si può andare col cane e dove no. tanto più in spiaggia dove, viva Dio, potremo andare a piedi nudi, potremo rotolarci. E il messaggio spiaggia di Antonio fa il paio con quello di Walter, perché lui dice: se alle cacche, alle cicche di sigaretta aggiungiamo le cacche dei cani, addio. Dottoressa Notari, il fronte di Cuore Denari si spezza a favore dei cani sulle spiagge, oppure il divieto di portare i cani in spiaggia, e a cui si aggiunge anche un messaggio di Carmen che ci scrive: ma come, paragonate i bambini ai cani, lei è una vergogna. Ma tanto non leggerete mai sto sms, ma noi li leggiamo, anche perché la dottoressa, il presidente dell'EMPA, non ha paragonato i cani ai bambini, e noi sappiamo che sono due cose ben distinte. In effetti, però, le persone che hanno a casa un animale se ne prendono cura. Se poi viene interpretata questa cura come una cura eccessiva o come una sostituzione, o di paragonare i cani ai bambini, e questo, Carmen, non posso fare nulla per cambiare la sua idea. Ma intanto, dottoressa Notari, poi andremo anche ai consigli, non solo per chi va in vacanza, ma naturalmente vorremmo anche approfittare di lei per avere delle indicazioni per un rapporto sereno ed equilibrato, un'amicizia bella con il nostro animale. Dottoressa Notari, a proposito dell'intervento del nostro ascoltatore sulle spiagge? Allora, e gli do ragione. Io, tra l'altro, mi arrabbio tantissimo dovunque, per strada, eccetera, se vedo degli escrementi di cane, perché è veramente un atto di inciviltà. Quando dicevo cammina, intendevo posti deserti dove non va nessuno, e naturalmente non le spiagge dove ci sono gli ombrelloni, le spiagge affollate, così come il cane non va lasciato libero dove c'è tanto traffico, ma il problema è che a volte ci sono effettivamente delle leggi che lo proibiscono, ma se il cane non stesse mai libero, questo sarebbe per taluni cani veramente un danno per il loro benessere. Ovviamente, e l'ho scritto anche sul Daily Lab, se il cane non è un cane educato non può mai stare libero. Però ha ragione, cioè l'igiene prima di tutto, mai dove possono disturbare qualcuno. Ci sono spiagge libere consentite ai cani adesso, ma naturalmente consentite ai cani non vuole assolutamente dire consentito lasciare gli escrementi dei cani. Allora, Rita ci avverte, stiamo parlando di cani, ma vogliamo oggi parlare anche di gatti, di pappagallini, di criceti, di furetti. E tartarughe, Rita, no? E le tartarughe, perché ti ho colpito. Molto carino l'ascoltatore che ha una tartaruga che è un portento, poi vi racconteremo perché. Voglio solo leggere il messaggio di Rita, che ci scrive che a Udine in questi giorni hanno avvelenato una colonia felina. E andiamo alle tartarughe? Andiamo alle tartarughe, perché l'ascoltatore, questa notizia un po' ci lascia un po' male, soprattutto me che amo moltissimo i gatti particolarmente. L'ascoltatore ci racconta, adesso vi leggo anche il nome, che ha una tartaruga che è molto meglio del colonnello Bernacca, che ricordiamo tutti con grande affetto, perché non appena c'è aria di pioggia nella sua zona, dottoressa Notari, questa tartarughina si nasconde nel suo come possiamo chiamarlo, rifugio, e da lì si capisce che sta arrivando pioggia. Che ne dice? Hanno anche questa capacità previsionale le tartarughe delle condizioni meteorologiche? Diciamo, lo so così per sentito dire, non sono un'espertissima di tartarughe, però sì, so che hanno queste, ma non solo le tartarughe, anche altri animali riescono a prevedere il tempo. Ho ritrovato intanto il nome dell'ascoltatore, che era Vito. Ma Nicoletta, secondo te bisogna portare, tu quando vai in giro con Emma, non so quanto tu te la porti in giro in vacanza o meno, adesso magari non in Grecia perché è un po' complicato, ma per altre mete un po' più vicine, ti porti il suo libretto sanitario? Assolutamente sì. Dottoressa Notari, faccio bene? Sì, assolutamente. Allora, diciamo che ci sono, a seconda del paese dove si va, ci sono diverse regole. Anche in Italia a volte ci sono delle regioni, e questo può cambiare anche a seconda dei periodi, per accedere alle quali ci vuole, per esempio, la vaccinazione antirabbica. A seconda di quali sono le segnalazioni delle autorità sanitarie. In generale, diciamo che è buona norma portarsi, adesso noi abbiamo anche il passaporto per i cani con cui possiamo circolare in Europa, e i cani per fare il passaporto devono avere un'antirabbica. una vaccinazione antirabbica. Poi vabbè, però sono anche molto, forse più importanti, tutte le protezioni dalle malattie parassitarie che possono essere trasmesse dalle zanzare, dai pappatacci, e tutte queste protezioni servono a evitare problemi che d'estate poi ci porterebbero ad essere in vacanza col cane con problemi, eccetera. Quindi è sempre bene prima una buona visita veterinaria prima di partire, a posto tutte le prevenzioni, pulci, zecche, ormai abbiamo tantissimi prodotti comodissimi, non ci sono scuse, e quindi per circolare in Europa ci vuole comunque la vaccinazione antirabbica. Poi se uno deve andare in mete un po' più esotiche, in ogni paese ci sono regole diverse. Certo, poi c'è il problema del viaggio in aereo, soprattutto certo, per i che cani diventa un po' un problema. Sì. Andiamo a sentire i nostri ascoltatori, Deborah? Andiamo a sentire i nostri ascoltatori e cominciamo. Vabbè, qua abbiamo l'imbarazzo della scelta. O Treviso, cominciamo con Gianluca, che forse si era messo in attesa un po' prima di Marco. Comunque sentiremo anche Marco. Buongiorno Gianluca, benvenuto. Buongiorno. Senta, io intervenivo perché sono un'unità cinofila salvataggio della SISSE, Scuola Italiana Cane Salvataggio, sezione qua del Veneto di Treviso. E, il discorso della cultura è fondamentale, perché purtroppo noi siamo molto indietro rispetto a tutta l'Europa. Allora, il signore che è intervenuto prima, Antonio, ha ragione al 100%, nel senso che quando il proprietario non è diciamo acculturato, sì, e non è responsabile, quindi, della, esatto, ecco, automaticamente quando il cane sbaglia il primo errore viene fatto dal proprietario. Assolutamente. Che non è mai il cane, perché se il cane è educato, e io è un consiglio che do a tutti quanti, poi anche nella scelta del cane, ad esempio io ho un Doberman, io sono 20 anni che ho questi cani e ripeto, appena vedono la razza prendono paura la gente. Invece è un cane da lavoro, è un cane che si è abituato ed è istruito, non dà nessun tipo di problema come tante altre razze, ma se cade nelle mani sbagliate, certo, poi dopo vengono fuori i problemi. In spiaggia è vero il discorso, però la legge è passata ed è anche giusto, perché nel momento in cui vietiamo di portare i nostri animali al mare, e poi dopo c'è il problema dell'abbandono o comunque del problema, però devono essere istruiti. Cioè, noi la prima cosa che ci insegnano è quella di aver cura proprio anche dei bisogni del cane, quindi non esiste che il mio cane sporchi e io non vado a pulire dove ha sporcato. Certo. Comunque Gianluca, fatto, qua nei messaggi che stanno arrivando a Cuore Denari, i nostri ascoltatori sono divisi, anche se sì, sono più i messaggi a favore dei cani. È un pro e un contro, ma io penso che se, come ricordava anche Gianluca e anche l'intervento della dottoressa Notari, i proprietari, i bipedi, fossero educati e responsabili dei loro animali, molti dei problemi si presenterebbero neanche. Il tema del buonsenso è sempre molto difficile, no, da applicare poi nella pratica quotidiana. E vabbè, andiamo all'altro trevigiano, Marco. In questo caso è Marco. Buongiorno. Buongiorno, io parlo a nome di Sire, Piva e Asso, i miei tre gatti. Ah. Allora, Sira... Sire. È maestoso. Certo, Piva. Regale. Ecco, Piva perché è un'attrice stupenda, e Asso. E sono tutti e tre gatti trovatelli, perché grazie all'associazione che rappresenta la signora, quando sono abbandonati io li recupero, però il limite massimo del riapportamento è tre gatti, non di più. Che sono già un po'. E non escono di casa, vivo solo in appartamento con me, sono affettuosi, disponibili. E soprattutto la cosa più piacevole, vivendo anche una condizione familiare difficile con una malata in casa, sono molto molto molto disponibili a fare coccole anche a chi è malato. Per cui a volte dico sempre, un animale in casa, un animale con te ti aiuta anche nel sollevarti da problemi, no? Ma Marco, lei lo sa che molte ricerche dimostrano che vivere con un animale faccia bene alla salute? Allora, io posso raccontare un episodio, perché io ho una mia mamma allettata, sì, e Diva ogni sera prima di andare via a dormire sale sul letto, le lecca le mani per 5 minuti e poi va via a dormire, ogni sera, e io devo dire la verità, è una cosa che neanche una persona adulta a volte si comporta. Marco, mi faccio venire il gruppo in gola. Sì, ci sono proprio miglioramenti relativi alla sfera fisica, relazionale, cognitiva, motoria. Insomma, ci sono delle ricerche che dimostrano che questa interazione aiuta naturalmente alle persone che amano gli animali. Se non c'è questa relazione, tutto si spegne. Dottoressa Notari, siamo qua. Sì, dunque, se siamo sull'argomento gli animali ci aiutano, gli animali ci curano, gli animali ci aiutano a superare le difficoltà, che è assolutamente vero. Quindi non solo gli animali, quelli proprio che fanno le attività assistite, la cosiddetta pet therapy, che sono animali adatti, preparati, vanno dagli anziani, eccetera, ma anche gli animali che abbiamo in casa. Ci sono, come avete detto, tantissimi studi che risalgono ormai anche, cioè ne abbiamo tanti e stiamo superando le decine di anni di studi su questo tipo di apporto che gli animali danno alle persone che hanno problemi. Poi il discorso che se tu hai un animale rimani più giovane, no? Perché comunque sei pieno di interessi, esci, cammini, parli con le altre persone, anche se sei anziano e vivi da solo, certo. Quindi chiaramente sono gli animali. Quando sono, si dice animali da compagnia, in quel termine da compagnia c'è un mondo. C'è un mondo, sì. Allora, superato intanto il coccolone che mi è preso ripensando al rapporto che mio papà, che è mancato 3 anni fa, ha avuto con l'ultimo gatto che abbiamo avuto perché gli stava sempre appiccicato addosso, adesso ritorno al tema che mi è più congeniale, dottoressa Notari, al tema dei denari. Perché anche la crisi ci mette lo zampino quando parliamo di controlli e visite veterinarie. L'Eurispes ha ampliato il suo raggio di indagine sul tema animali, dando voce proprio anche ai veterinari. Eh sì. E ha realizzato questa indagine con il contributo della Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani, la FNOVI, che ha coinvolto i propri associati nella compilazione di un questionario. L'82,8% dei veterinari interpellati riscontra spesso una cura adeguata degli animali, il 2,2% sempre, mentre un 14,8% si dimostra più critico rispondendo raramente. Questo significa che la crisi colpisce pesantemente anche i nostri piccoli amici. La larga maggioranza del campione riferisce che i proprietari di animali hanno ridotto le spese veterinarie per oltre la metà abbastanza, per il 34,7% oltre un terzo, addirittura molto. E solo in minima parte appunto si parla di una lieve riduzione. Dottoressa Notari, lei ce le conferma, anche tra i suoi clienti riscontra questa... Sì, naturalmente questi studi, noi rispondiamo a questi questionari pensando ai nostri clienti, poi ci sono delle persone che non hanno proprio il veterinario, cioè che vanno solo quando hanno un problema grave. Esatto, molto grave. E queste poi sono le situazioni che per noi sono più difficilmente risolvibili. Io poi, che mi occupo anche di comportamento, naturalmente purtroppo ne vedo tante situazioni che sono arrivate a un punto che difficilmente si riesce a intervenire. E purtroppo la prevenzione, ma penso anche medicina umana, è l'aspetto più spinoso, no? In ogni caso noi abbiamo delle cadenze, quindi almeno le 2-3 volte all'anno per le vaccinazioni, gli interventi, le prescrizioni degli antiparassitari, eccetera, lì si vede l'animale, si visita. Certo. Purtroppo, insomma, sono costi, ma bisogna affrontarli. Se una persona tiene un cane o un gatto, deve fare i conti anche con il veterinario. Almeno il minimo indispensabile, certo. E della dottoressa Lorella Notari potrete leggere i post sul nostro Daily Lab. La ringraziamo. Grazie. Per essere stata con noi. Le auguriamo una buona giornata, una buona vacanza. Certo, noi invece ritorniamo qua puntuali alle 11 domani. A tutti, buon pomeriggio.